Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Denuncio un attentato, anche oggi volevo intervenire sulla sigla, mi hanno spento i bottoni, se no l'avrei fatto. Giorgio De Luca è il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Edoardo Lavezzari in redazione, saluto anche Claudia Schiattone che se ne sta andando via, non so perché, non ci vuole ascoltare forse. Saluto tutti i nostri amici convocabili e convocati come ogni giorno all'800240024. Ne approfitto per contraddire un amico che scrive un WhatsApp 349-238-6666. È un'indecenza. Non parlate mai poi mai di motocross, ma sapete che chi abbiamo in corsa per il nono titolo? Sì, sappiamo perfettamente chi abbiamo in corsa per il nono titolo e ne approfitto per dire che dal prossimo venerdì e per ogni venerdì la seconda parte di Tutti Convocati, quindi dalle 15 alla chiusura, sarà dedicata sezione speciale race motori, Formula 1, Moto Mondiale, con le voci di Roberto Ungaro e Leo Turrini. Più di così che volete? Siamo al top, esattamente. Intanto saluto e ringrazio Marco Nosotti che è a Coverciano per Sky. Ciao Marco. Ciao Carlo, ciao, un saluto a tutti, buona giornata. Sta arrivando anche Pardo che non sta rispondendo al telefono, ma sul telefono sai com'è, l'ha comprato ancora all'epoca in cui i cellulari sembravano mattoni. Aria fresca a Coverciano, aria fresca a Coverciano all'ombra della vecchia, dell'antica Quercia, Gigi Buffon. Sentiamo un Ventura che tu avrai già sentito in presa diretta. Io l'ho detto in tempi non sospetti, ho detto che c'era un'infornata di giovani che avrebbe dovuto essere innaffiata perché c'era la possibilità di costruire una nazionale importante per il futuro. Ho detto in tempi non sospetti che se per caso, perché qui il problema primario è quello della qualificazione, il primo anno che se ne qualifica una sola, primo anno che non siamo in testa di serie, cioè ci sono tante problematiche, ma ho anche detto che se il giorno che l'Italia si qualificasse per i mondiali sono assolutamente certo che l'Italia sarà una delle sorprese dei mondiali. Marco Nosotti e Pierluigi Pardo, che eccolo qui. Come va? Molto bene, io leverei quell'inciso, dai, lo leviamo insieme quell'inciso, se per caso un giorno magari non da primi ci qualificassimo per i mondiali saremmo la sorpresa, togliamolo insieme quell'inciso. Sì, io sono d'accordo, anche se è difficile per la formula, perché purtroppo ti giocherai tutto contro la Spagna, ma devi fare bene contro l'Albania per prestazione e per risultato. Ma veramente devo dire che Gianpiero Ventura sta lavorando bene con i club, con gli stage che sono a dimostrazione, e con i giovani che prenderanno parte sempre di più a questa nazionale, perché il cambio ci vuole, la rivoluzione bisogna farla. Ora ci sono 11 giocatori reduci dall'Europeo, non puoi non partire da loro, ma già vediamo che il 3-5-2 diventa 4-2-4 per quello che valgono i numeri, cioè stanno acquisendo nuove conoscenze condivise, anche il 4-3, cioè stanno provando diverse situazioni e devono arrivare a mettere insieme certezze importanti, numerose, da poi mettere in campo a seconda dell'avversario. Credo che gli avversari dovranno preoccuparsi di questo. Beh, ma ragazzi, invito anche gli ascoltatori, 800240024, una nazionale che a me piace molto, molti giovani, già eccellenti giocatori, bravi ragazzi, nessun caso da psicanalisi, zero polemiche. Vero. Non c'è più un commissario tecnico che, come faceva Conte, viveva sull'orlo di una perpetua crisi di nervi, ma forse in quel momento era necessario un commissario tecnico così. Adesso un uomo di calcio normalizzatore come Ventura, che parlavamo ieri con Lucarelli, no Pierluigi, è colui che ha fatto il tiki-taka prima del tiki-taka di Guardiola. Sì, ma sono d'accordo. Detto questo, insomma, Conte, mi tengo la crisi di nervi, voglio dire, se ho la possibilità di essere allenato da Conte. Sì, diciamo. Ma per carità. Pago io lo psicologo, nel senso che sicuramente aveva dei metodi certe cose un po' brusche, però insomma Conte ha fatto, lo sta dimostrando ancora al Chelsea, continua a fare cose una più bella dell'altra, quindi però sono d'accordo con Noso, cioè, secondo me c'è una semina, è una fase di semina importante, preziosa, ovviamente favorita anche dal fatto che qualcosa si muove dal punto di vista dei giovani nel nostro calcio, cioè sta nascendo, non so dirti ancora se una generazione, ma comunque stanno nascendo dei prospetti molto molto interessanti in vari ruoli, quindi questo è davvero molto positivo, e Ventura è l'uomo giusto per fare questo tipo di lavoro. È chiaro che quella cosa lì, che è la qualificazione, non è purtroppo un dettaglio, cioè qualcosa sulla quale poi Ventura verrà giudicato, nel senso che noi siamo abituati a fare il mondiale, a farlo anche piuttosto bene, quindi non è colpa sua, sicuramente la formula non ci aiuta. C'è anche da dire che insomma altre volte abbiamo fatto il playoff per andare al mondiale, assolutamente, nel 98, insomma non voglio neanche pensarci a un mondiale senza l'Italia, no, appunto non voglio nemmeno prendere in considerazione questa ipotesi, voglio essere ottimista fino all'eccesso e agli scongiuri di tutti quelli che vogliono. Qualcuno dirà: Marco, tu hai seguito mille edizioni della nazionale, da quelle sempre sull'orlo di una crisi di nervi a quelle più tranquille, a quelle vincenti, a quelle perdenti. Qualcuno dirà che questa è fin troppo tranquilla, che le polemiche, l'ha detto anche Pardora, sono divertenti, che ecco, con i cattivi ragazzi che si vincono le partite, che così si rischia la noia. Ma la noia, anche da un punto di vista giornalistico, forse si può rischiare perché ti manca qualcosa, ma è il calcio che fa la differenza, sono gli uomini forti, gli uomini che hanno grandi personalità e che si mettono al servizio che fanno la differenza. Avevamo una grandissima generazione nel 2006, avevamo i Bad Boys nel 2014, li metti insieme, sono situazioni differenti. E ci vuole gente che abbia fame, abbia voglia, abbia qualità, sappia giocare al pallone insieme e avere la fortuna che stiano bene tutti insieme per costruire. A me non dispiace questa nazionale, questa semina attraverso gli stage. I club hanno capito che valorizzano i propri giovani facendoli giocare nel proprio club, ma anche se ti vanno in nazionale durante la settimana. Ha ottenuto 4 stage, nessuno c'era mai riuscito. Chiama i giovani. I giovani dicono: oh, abbiamo già respirato quest'aria, la prima volta ci tremano meno le gambe, sappiamo già che cosa dobbiamo fare. Perché se c'è qualcosa che ci manca, l'esperienza che abbiamo dietro in abbondanza, ma poi da lì in avanti l'esperienza internazionale ci fa un po' di difetto. I giocatori che abbiamo adesso sono sempre qui, perché vediamo come sta Bonucci, che ha avuto l'attacco influenzale, se no c'era Romagnoli, però Barzagli, tu vai a vedere, c'è Buffon, De Rossi e Meratti, non è che insomma, infatti è una nazionale quasi spostata in due dal punto di vista generazionale, nel senso che dietro sicuramente ci sono innesti importanti, ovviamente Romagnoli è quello forse più avanti in questo tipo di percorso, però insomma è chiaro che lo Zoc, c'è anche Rugani che sta crescendo, sì, bravo. De Sciglio, insomma ci sono delle cose interessanti anche dietro, però è ovvio che la qualità noi dietro ce l'abbiamo sempre avuta, per cui per i giovani difensori italiani è un po' più difficile riuscire a ritagliarsi un ruolo, no? Perché ci sono hanno tempo per studiare, fanno gli stage, fanno le ripetizioni, Sarri si incazza ma fa niente. No, un'ultima cosa prima di salutare Marco Nosotti, voglio farvi sentire una battuta di Petagna che disegna un podio. Belotti davanti, anche perché gioca nel Torino, ha fatto tanti gol e a volte magari quando sei nelle grandi squadre e hai giocatori ancora più forti intorno è ancora più facile segnare. Lui fa tanti gol giocando nel Torino e quindi metto lui sicuramente al primo posto, anche perché è giovane ed italiano. E come secondo forse ti metto sicuramente Higuain, perché anche lui è un mostro sacro del calcio, l'ha dimostrato l'anno scorso, lo sta dimostrando anche quest'anno con la Juve. E poi dietro chiaramente Icardi e Zeko, ma stiamo parlando di fenomeni, di campioni, è anche difficile fare una classifica. Allora lo chiedo a voi, condividete il podio di Petagna? Primo Belotti, secondo Higuain e terzi a pari merito Icardi e Zeko? Marco? Lo condivido, nel senso che però non farei scalini troppo alti a differenziare le posizioni, nel senso che Belotti sta crescendo, deve confermarsi, però sappiamo che questo ha fame, ha potenza, ha colpi e fa tante cose per 90 minuti. Ti attacca alla profondità, destro, sinistro. E e fra l'altro chiude in chiave azzurra con Immobile. Sono veramente una coppia, si conoscono, li ha usati, già Giampiero Ventura gli ha dato i compiti, si conoscono bene, fanno gol, ti ripeto, e si completano, perché anche Immobile, sempre lì sulla linea della difesa, si sfila destra e sinistra e la corsa è sempre orientata verso la porta, ti ripeto, sempre al servizio per 90 minuti. Certo. Sono grandiosi, poi ovvio il Pipita, Dzeko, Icardi, sono bestie d'area. Sì, ci divertiamo, sì. Con divertiamo, questi attaccanti ci divertiamo. Grazie Marco. Allora il podio, il podio di Pardo subito, no, dopo il podio metto quei tre, anche se Dzeko, okay, e quindi tolgo dal podio, in realtà è un giocatore che ha una capacità di servizio alla squadra straordinaria. Se cerchiamo l'attaccante, se cerchiamo il gol sul primo gradino, Belotti o Higuain? Io Higuain ancora, con tutto rispetto per il Gallo, eh. Sì, beh, è chiaro. Io vedo molto bene anche Icardi, ti dico la verità. Icardi secondo me è un giocatore. È un giocatore che solo l'Argentina può permettersi di lasciare a casa e di far allenare alla Pinetina con l'Inter. Allora, facciamo così, ne parliamo con un grande bomber subito dopo il traffico, cioè Sergio Pellissier, che sarà il nostro ospite, che ha ormai sforato la quota di 100 gol in Serie A. Vi ricordo anche che dopo il giro delle 15, avremo un altro bomber per diverse ragioni, dirà qualcuno un po' malizioso, però un grandissimo campione che oggi compie 50 anni, cioè Mario Cipollini. Traffico. Convocati. Tutti convocati. Mattiello, il cross forte in mezzo, deviazione a rete, sbuca Pellissier sul primo palo, il gol del 2-2, ha segnato appena entrato Pellissier, il Chievo trova il pareggio. I gol sono tutti belli, indubbiamente è il primo, magari a tripletta con la Juve, ma questo, ma tanti, quando riesce a buttare la palla dentro è sempre bello. Poi D'Angela ruba palla a centrocampo, sul fondo, il sinistro, e il gol! E sono tre per Sergio Pellissier. Tossena verso Brighi. Pellissier prova a girarsi, incredibile, Sergio Pellissier al debutto, 30 anni, fa gol e che gol. Sergio Pellissier, ti piace Fran Ferdinand? Sì, abbiamo messo nella copertina a te dedicata, grazie intanto per essere con me e con Pardo. Ciao. Grazie a voi dell'invito. Senti, i numeri li abbiamo un po' riassunti, no, in questa copertina. Il tuo primo e unico gol in nazionale, ma quest'anno hai tagliato il traguardo dei 100 in Serie A. 547 presenze in carriera, 649 con il Chievo, 130 gol con il Chievo, 104 in Serie A. Super bomberissimo, Pardo, forse il più sottovalutato tra i bomber italiani. Beh, sì, in realtà stiamo parlando di Mister Chievo, nel senso che i numeri lo dicono in maniera clamorosa, cioè Pellissier è il Totti del Chievo. È il Totti del Chievo. Sei il Totti del Chievo, Sergio? Sì, con un filino di qualità in meno, direi. Ma ha ragione, però, bella sì, definizione. Però insomma, voglio dire, la definizione ci sta, perché insomma stiamo parlando di un giocatore che per distacco ha tutti i record di Terra per lungo tempo della storia di questo club, che è un club importante, un club virtuoso. Io gli vorrei chiedere se ha mai pensato a cose diverse e qual è il segreto, no? La parola miracolo ormai l'abbiamo bandita da tanti anni, ma qual è, dovendo fare una sintesi, la forza di questo club, che a parte una retrocessione nell'anno post-Europa, poi subito con la promozione dell'anno successivo, non ha mai sbagliato un colpo? Chissà, non lo so, direi che non è facile giocare ad alti livelli, soprattutto per una società che magari ha meno soldi a disposizione di tante grandi, però credo che la società abbia sempre scelto dei giocatori che magari non erano dei fenomeni, però che erano uomini, che hanno sempre cercato di dare il massimo per se stessi, ma soprattutto per la società, il Chievo. Quando riesce a capire che importanza ha la salvezza per questa società, che importanza è rimanere in questa massima categoria, dai forse di più di quello che daresti in un'altra società che magari è più tranquilla. Sergio, quest'anno state facendo una grande stagione, una delle migliori degli ultimi anni, ma è un campionato strano. Io e Pardo ne abbiamo parlato moltissime volte, declinando questa considerazione sotto vari aspetti. Praticamente il Chievo è salvo dalla fine del girone d'andata, no? O giù di lì. Quindi, Sì, è un campionato veramente strano. Io penso di non aver mai visto questo distacco tra le ultime e le squadre, diciamo, quelle di mezzo. Certo. Io credo che a salvezza non so neanche se posso arrivare a 30 punti. Io da quando abbiamo fatto la Serie A, il minimo era 34-35. Sì. Quando puntavi ai 40 punti era perché tante squadre sono retrocesse a 42. Io mi ricordo del retrocesso, non so, che era Bologna a 42 punti, noi ci siamo salvati con 43. C'è una squadra che ha fatto un punto in 8 partite e che conserva un vantaggio del tutto rassicurante, che è l'Empoli. Questa è la cosa incredibile di questo campionato. Indubbiamente la difficoltà sta nel fatto che tutte quelle di mezzo si equivalgono molto, quindi rischi di fare un buonissimo campionato come stiamo facendo, però rimanere sempre lì e non fare il salto, perché comunque appunto per questo, come si trovano le motivazioni, nel senso che un campionato come questo purtroppo ha tante partite apparentemente noiose. Allora è chiaro che quando giochi con la Juve, col Napoli, con l'Inter, con la Roma, la motivazione è a prescindere, ma cioè, che obiettivo vi date di settimana in settimana? Perché c'è quella terra di mezzo, no? che è arrivare decimi e non undicesimi, arrivare dodicesimi e non tredicesimi. Cioè, si riesce a costruire degli obiettivi anche su questo, oppure è uno sforzo che alla fine non funziona? Bisogna trovare gli obiettivi, perché altrimenti rischi veramente di buttare tutto via quello che stai facendo, perché poi se non hai stimoli, se non hai obiettivi, se non hai quella voglia di migliorarti, di ottenere qualcosa in più, rischi di fare una brutta fine. Noi non abbiamo quella intenzione. La società ha più volte detto che vuole arrivare almeno nelle prime 10, perché giustamente si prendono più soldi, perché comunque anche quello è importante per loro. Il mister indubbiamente non ha mai mollato, non penso che molli le ultime partite, e noi vogliamo assolutamente finire la stragrande e migliorarci, quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Indubbiamente non è facile perché giochi con tante squadre che come noi non hanno obiettivi, cioè non hanno obiettivi, hanno obiettivi però non sono obiettivi primari, e quindi rischi di perdere magari una partita, vincerne una. E sei lì che perdi punti in giro, però non è facile, però il nostro intento è quello sicuramente di far più punti possibile. Sì, poi tra l'altro, Pier, come ben sai, il nostro bomber ha vari primati. È l'unico valdostano ad aver indossato la maglia azzurra, l'ha indossata e ovviamente ha inchiostrato il tabellino, ed è l'unico giocatore dell'attuale Serie A ad aver fatto 3 palle a Gigi Buffon. Questo te lo ricordi? Beh, non credo che si dimentichi, no, un giorno così. No, una bella medaglia, No, ovviamente, a parte il palcoscenico che era davanti a uno dei portieri più forti della storia del calcio, la mia prima tripletta contro la Juve, cioè, possiamo dire che è stata una giornata veramente indimenticabile, che penso che mi rimarrà veramente come ricordo straordinario. Chi vince la classifica marcatori e anche chi ti piace di più, se tu dovessi dare un premio della critica a uno di quei 6 che sono lì davanti, e anche il podio di allora, Sergio Pellissier, perché abbiamo sentito prima, scusami Sergio, sì. Completo la domanda di Pardo, faccio fare anche a te il podio, perché per quello di Petagna è primo Belotti, secondo Higuain, e sul terzo gradino mette Icardi e Dzeko a pari merito. Allora, partiamo da chi vince la classifica. Parliamo di quattro attaccanti veramente straordinari che stanno facendo veramente bene, quindi è già difficile scegliere da questi. Indubbiamente io non posso che tifare un italiano, perché altrimenti saremmo saremo sempre dietro gli altri, e quindi io spero che arrivi davanti Belotti. Ovviamente gli altri stanno andando veramente forte. Seco fa gol ogni volta che gioca, Higuain lo conosciamo la qualità che ha, Icardi è un altro giocatore che magari non tocca palla per tutta la partita, però ti fa doppietta, quindi è veramente complesso scegliere. Io uno posso dirlo, io scelgo Belotti perché è italiano, perché è un grosso attaccante ed è uno dei giocatori più completi adesso come attaccanti italiani, quindi mi auguro che possa fare ancora molto bene. Sì, secondo me è anche più completo di Icardi attualmente. Poi Icardi, Pier, l'abbiamo detto prima, è una bestia d'area di rigore, e come ha sottolineato giustamente Sergio è un grande tiratore. Che qualche volta partecipa, come diceva in qualche modo Sergio, magari partecipa un po' poco certe volte, no? Ha bisogno di essere servito, però tutto porta infallibile. Higuain è probabilmente dal punto di vista tecnico il più forte di tutti questi, e secondo me ha ancora un margine, so che può sembrare incredibile, secondo me non è l'attaccante più freddo della storia del calcio, tanto per essere chiari. Icardi dici? No, Higuain. Higuain è un fenomeno, secondo me, dal punto di vista tecnico. Sì. Dal punto di vista della freddezza sotto porta, secondo me, non so che ne pensa Sergio, potrebbe essere ancora meglio. Considerati la quantità di gol che fa, però ci sono stati alcuni passaggi fondamentali della sua carriera con dei gol clamorosi sbagliati, insomma. Sì, tanti rigori sbagliati. Tanti rigori sbagliati, cioè non è proprio il killer, ciononostante l'attaccante per me è più forte di tutti questi qui, e il Gallo sta venendo fuori alla grande. Dzeko, un attaccante fantastico secondo me, soprattutto come partecipazione al lavoro della squadra, e poi c'è Mertens, poi c'è Immobile, insomma ci divertiamo. Sergio? Sì, no, stavo ascoltando. No, ma più o meno ha ragione, indubbiamente parliamo veramente di una inezia, dettagli. Si parla di Higuain che ha una media gol che è strategica ed è uno degli attaccanti più forti in assoluto. Indubbiamente ogni tanto sbaglia anche lui, magari lo ha dimostrato l'altro anno, soprattutto nei momenti più importanti dove ha sbagliato qualche gol, ha sbagliato qualche rigore fondamentale che purtroppo gli è costato poi il primato. E devo dire che però è un attaccante straordinario. Gli altri, devo dire la verità, sono Belotti, ancora questo è il più completo in assoluto. Sì, a parte la tecnica, che come avete detto, Higuain è superiore a tutti gli altri, però come qualità, come corsa, come determinazione, cattiveria sotto porta, cattiveria anche nel conquistare palloni, proteggere. Belotti veramente in questo momento è uno degli attaccanti più completi. Mentre Icardi, che comunque a me piace da impazzire, ma sto dicendo una banalità, mi viene in mente una definizione che usò un tempo l'indimenticabile Sandro Ciotti per Virdis: ogni tanto sembra che giri per l'area come cercando un tabaccaio e poi improvvisamente la mette dentro. L'ultima cosa che volevo chiedere a Sergio Pellissier, perfetto il parallelo di che ha fatto prima Pardi. Pellissier è il Totti del Chievo. Che intenzioni hai? Rinnovi i contratti, vai avanti, quanto ti incazzi se Maranti mette in panchina? Saresti disposto a fare quel ruolo che sta facendo ora Totti? Ecco, non lo so se il mio carattere mi possa concedere il ruolo che sta facendo. Ho capito, ti incazzi parecchio. Ancora adesso col mister ogni tanto chiacchieriamo su questo fatto. Lo so. E devo dire che è sempre stata la mia forza, quello di voler giocare a tutti i costi. E quando qualcuno mi ha messo in disparte, la mia forza è stata proprio quella di lottare per riconquistarmi il posto, quindi non abbattermi e ricominciare tutto da capo. E se non avessi quella voglia, quella determinazione, quell'entusiasmo ancora adesso di scendere in campo e di volermi conquistare il posto, di dover fare ancora gol, voler fare ancora presenza in Serie A, sarei il primo ad appendere le scarpe al chiodo, ma non è questo il momento. Ho ancora un anno di contratto, mi auguro che il mio fisico regga e quindi mi dia la possibilità di giocare ancora qualche anno, e finché reggo vorrei giocare, perché poi a parte che è il nostro mestiere e non è sempre bello, però ti diverti quando le cose vanno bene, ti diverti scendere in campo e comunque è un gioco, quindi è uno dei mestieri è bello più belli, continuare a giocare, è uno dei mestieri più belli del mondo. Subito dopo viene quello che fa Pardo, cioè il telecronista che va in giro a raccontare le telecronache. Io ti saluto leggendoti una mail di Marco Nigro, un ascoltatore di Ferrara, grande fenomeno anche alla Spal. Tanti anni fa, la Spal mi sa che te la trovi davanti l'anno prossimo in Serie A e sarebbe un grandissimo ritorno di un club storico. Assolutamente, sono veramente contento, sarei veramente contento se dovesse accadere, mi auguro, sto tifando per loro, quindi sarebbe bello poter tornare anche se da avversario, però sarebbe bello poter ritornare in quello stadio. Grazie Sergio! Ciao! Grazie a ciao. Voi, un abbraccio! Ciao, saluta Cimarán, non ti incazzare troppo se ti lascia giù qualche volta! Tra l'altro sai chi sarebbe contento, no? Pardo nel vedere la Spal in Serie A. Abbio Capello! Io mia nonna di Salara, tifosa della Spal. Attenzione, spuntano come funghi. Non ne sapeva molto, però insomma diceva che era tifosa della Spal. Quindi e poi la Spal ha questo nome, no, per chi non è esattamente di Ferrara, ha questo nome società un po' esotico, Flavor, perché la chiaramente è già simpatica, già diversa. Sì. Quindi lei sta facendo un campionato straordinario, allenatore molto molto interessante, che non a caso è stato accostato, anche se lui ha smentito ovviamente, a club importanti come la Fiorentina. Ha una grande tifoseria, ma insomma sai, poi qui si sfiora la banalità, nel senso che le grandi tifoserie anche nelle province italiane, nelle belle province italiane, sono tante, insomma. Io penso sarebbe divertente, insomma, di trovare un grande club storico come quello in Serie A. Cappello sarebbe contento. Cappello sarebbe contento. Ci fermiamo per la borsa, torniamo dopo. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Convocati. Oggi giorno dei grandi bomber, abbiamo sentito Sergio Pellissier. Dopo il GR delle 15 sentiremo un altro grande bomber, in questo caso del ciclismo, Mario Cipollini. Abbiamo il podio dei bomber compilato da Petagna, che mette al primo posto del nostro campionato, primo posto Belotti, al secondo Higuain e al terzo Icardi e Dzeko. Io invertirei i primi due, almeno rebus sextantibus, cioè allo stato dell'arte. Higuain secondo me è ancora un passo davanti a tutti gli altri, al di là del numero dei gol. Alessandro da Milano, buongiorno. Buongiorno. Allora, visto che stiamo parlando di grandi bomber, io sì, sono un appassionato di finali di Champions, sì, e volevo far notare che l'Italia, in particolare Milan e Inter, hanno il primato delle segnature multiple nelle finali di Champions. Addirittura abbiamo 9, che sono 7 del Milan e 2 dell'Inter. Sì. Dietro c'è il Real Madrid, ma va parecchio lontano. E quindi noi abbiamo, come Milan e Inter, abbiamo, lo dico in rapida serie, abbiamo avuto Altafini, Mazzola, Prati, Gullit, Van Basten, Massaro, Crespo, Inzaghi, Milik. Tutte segnature multiple nella finale. Una cosa interessante è che una di queste corrisponde a una sconfitta, Crespo contro Liverpool. Il Liverpool, sì. Che è una cosa molto rara, una multipla sconfitta, ma non è l'unica volta. Successe anche a Puskas, che segnò addirittura 3 gol perdendo 5-3 contro il Benfica nel 1962. Sta interessante. Questo è interessante. Mentre lei parlava, invece, a me veniva in mente la finale di Vienna, dove il Milan vinse 1-0 gol di Rijkaard. Non so se per fare da contraltare, ecco, o da bastian contrario. Saluto Ciccio Ordine. Ciao Franco. Eccomi qua, buon pomeriggio a voi tutti. Come stai? Io abbastanza bene, perché mi entri... faccio questa domanda? Pensa bene, come stai? Uno non può fare la domanda, come stai? Perché Ciccio già sa dove andiamo a parare, no? Andiamo a parare su Galliani, che si... mi sembra anche, come dire, oltre che giusto, inevitabile. Inevitabile. Allora, oggi esce la notizia, Galliani tenta la scalata per il Milan, ma perché no? Galliani con un socio potente che può essere, si scrive, Mendes, il re, l'imperatore mondiale dei procuratori, inutile stare a fare l'elenco dei suoi assistiti che parte da Mourinho e finisce non so dove, oppure Doyen, c'è cioè quel Cristiano fondo Ronaldo. Cristiano Ronaldo, sì, no no no, ma infatti Cristiano Ronaldo, Mourinho, anche qui dobbiamo fare una classifica, comunque parte da lì e finisce non so dove. Oppure Doyen, quel fondo che iniziò il mercato con Gagliani l'anno scorso, poi misteriosamente sparì. Oppure Nelio Lucas fu il rappresentante di Doyen, tra l'altro Mendes e Lucas sono arcirivali, quindi Gagliani potrebbe anche dar luogo ad un'asta. Saluto anche Fabrizio Biasin, perché in questo cinema milanese non può mancare, anche perché io devo buttare della carne al fuoco, perché secondo me l'anno prossimo avremo, caro Ciccio Ordine, un derby tra ricchi e poveri. I ricchi, no, e poveri. Vediamo. Tanto ciao, vediamo a tutti, e mi iscrivo al cinema. Buon pomeriggio. Ho già preso il biglietto per andare al cinema. Già preso il biglietto per andare al cinema. Dimmi di questa di Gagliani, Franco. Ma guarda, io dovrei risponderti in maniera molto francescana, prendendo appunto spunto dalla famosa risposta di Papa Francesco: chi sono io per giudicare la notizia di un collega, e quindi non entro in questo merito. Faccio una valutazione così. Applausi a scena aperta. Ecco, faccio una valutazione così sullo scenario e dico che lo scenario mi sembra abbastanza improbabile per due motivi. Primo, perché la scalata si trascina con sé un concetto di ostilità, e pensare a un'ostilità di Gagliani nei confronti di Berlusconi mi sembra assolutamente improbabile, oltre che seriamente impossibile. Secondo, perché se in questo gruppo ci sono due come Mendes o Nino Lucas di Doyen, sono due che non buttano soldi dentro una società, ma che vanno in cerca di affari per portare a casa soldi. Per cui io vorrei liquidare con una tutta questa vicenda. Tu dovresti fare una domanda, sì, che è la seguente. La faccio a Pardo. No, dovresti farla sia tu che Pardo, dovresti farla a me. Ma tu, Franco Ordine, domani sul giornale riprenderai questa notizia? Fammi la domanda. Franco, posso farti una domanda? Sì. Volevo sapere se tu domani questa suggestione di Gagliani di una scalata al Milan, insomma, se la riprenderai, se gli darai risalto, che cosa ne dirai? La risposta è no. Ma questo non è, cioè, questo non è cinema, questo è teatro. Teatro dell'assurdo. La risposta è no. Okay, chiedete a Ordine qualcosa sul closing con una serie di faccine che piangono fino alle lacrime. Ma quale closing, ragazzi? Parliamo seriamente di closing, perché è l'argomento, all'ordine del giorno. Sì. Adesso io penso che noi tra oggi pomeriggio e domani. Capiremo intanto se è arrivata questa nuova caparra, perché questa è il passaggio decisivo per ottenere la firma del rinnovo del contratto, che porterebbe al famoso closing del 7 aprile. Quelli che frequentano i giornali ben informati, che non sono quelli italiani, ma parlo di quelli internazionali tipo Wall Street Journal, il quale appunto ha scritto che è da un anno che il 98% dei capitali esportati all'estero è diminuito di 98% rispetto all'anno precedente, oppure il presidente o vicepresidente della banca cinese che ha detto le esportazioni di capitali all'estero era una vera e propria fuga di capitali. Questo è obiettivamente, ci deve far capire finalmente che non stiamo che le difficoltà di cui parla la cordata guidata, o comunque il fondo guidato da Jung-Woon Lee, sono obiettive e non sono inventate fantasie. Sì. Questo è il primo punto. No, il secondo punto lo approfondiamo dopo il traffico, e qui mi entra in gioco Fabrizio Biasin, perché i capitali saranno anche fuggiti dalla Cina, ma sono fuggiti verso l'Inter, e io credo che Suning l'anno prossimo non voglia fare la comparsa, ma voglia fare l'attore protagonista del campionato. Traffico. Tutti convocati. Convocati. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. Tutti convocati. Allora, Ciccio Ordine, il secondo punto, poi passa Biasina e Pardo a tirare fila. Sì, allora il secondo punto è questo, secondo me, e cioè che i soldi per la terza capanna sono già disponibili da tempo, come tra l'altro ha testimoniato anche, credo, Carlo Festa, sostenendo appunto che sono lì quella banca delle isole britanniche. Sì. Bene, il punto è da chiedersi perché hanno rallentato ad arrivare qui. Il punto è semplicissimo, perché giustamente quelli del consorzio cinese hanno fatto questo ragionamento terra terra, e cioè dice: ci conviene mettere a rischio altri 100 milioni se non abbiamo prima la certezza di poi avere i soldi per chiudere, perché a quel punto sarebbe nell'ordine della follia. Lì bisognerebbe mandare cercare i dottori bravi su internet, uno che ti regala 200 va bene fino a un certo punto, ma se poi te ne regala 300 e poi non hai 220 che servono per chiudere, allora è da rinchiudere lui in un manicomio, che sia in Cina, in Mongolia, in Giappone, in Turkmenistan. Intanto, Fabrizio, eccomi, hai ascoltato attentamente. Sì, l'anno prossimo, non Doyen, ma Suning, che è un colosso mondiale, io credo che arrivi con intenzioni bellicose per il prossimo mercato. Oggi Simeone ha detto: tendenzialmente resto l'Atletico Madrid. Conte sta stravincendo il campionato inglese, però si parla, cioè io mi aspetto che l'Inter faccia una squadra per competere con la Juve. Ma me lo aspetto anch'io, perché le intenzioni sono quelle. Il primo mercato di Suning con il mister Zhang appena subentrato a Torino è stato già un mercato da oltre 100 milioni di euro, con il fair play finanziario incombente sulle spalle. Il prossimo io me lo immagino ancora più spavillante, che non significa che sarà per forza perfetto, bisognerà anche saper rispendere questi soldi, però le intenzioni sono quelle di riportare l'Inter al top in Europa e nel mondo, e mi sembra che al di là di quelle che siano i nomi di mercato associati ai nerazzurri, quello che sta succedendo attorno all'universo Inter fa ben sperare, con collaborazioni, partnership in Oriente, piuttosto che la volontà di presentarsi bene in Europa. I segnali sono più che confortanti. L'Inter, va detto, è stata molto fortunata a trovare questo imprenditore che pare essere illuminato. Pierluigi, quindi ricchi e poveri a San Siro l'anno prossimo. Ma guarda, la sensazione è che la scommessa, il giochino, è che secondo me, ma ovviamente è un giochino, si potrebbe usarlo contro di me, la prossima squadra che vincerà il campionato dopo la Juve, non so tra quanti anni, in questo momento sono in pole position anche all'Inter. Cioè, sembra il progetto. Io mi associo con licenza di prendermi per il culo fino alla fine dell'anno. Ma è ovvio. Però voglio dire, in termini probabilistici, secondo me è la cosa più probabile. Poi è chiaro che Roma e Napoli sono sempre lì. Però la sensazione è che mentre Roma e Napoli, comunque, se anche fanno investimenti sempre oculati, sempre in un rapporto acquisti-cessioni che deve trovare una sua quadra, l'Inter possa fare, tra virgolette, le follie. Che sono posso quelle associarmi che... con un codicillo? Dipende dal codicillo. Vai. Allora, io mi associo al pronostico di Pardo, che noi tutti condividiamo, sia io che Biasin. Che noi tutti condividiamo, e che non è, voglio dire, una roba particolarmente impegnativa, con un codicillo che rappresenta: a patto che arrivi Antonio Conte sulla panchina dell'Inter. Perché se arriva Simeone, no, invece no. Io ti dico, magari succede fra 3 anni, cioè la Juve è avanti anche per parecchi altri anni, però se io ti devo dire, in questo momento, quella che mi sembra la forza emergente, che in termini economici è pronta a fare investimenti top, cioè il nuovo Chelsea di Abramovic, il nuovo Manchester City, il nuovo Paris Saint Germain, la nuova cosa grossa, mi sembra che possa essere l'Inter. Poi posso dire una cosa, scusate, sì, perché Fabrizio, io non sono d'accordo con Frank con Franco, a patto che arrivi Conte, a patto che questo non è strano che tu non sia d'accordo con perché non c'è niente di scritto che dica arrivano questi due allenatori e allora sicuramente le cose andranno meglio rispetto a come stanno andando adesso. Adesso no, il però... povero Pioli, ragazzi, 2,26 punti di media partita. No, ma non è questo il discorso. No, Fabrizio, ma non è questo il discorso. Quello che stiamo dicendo, e in questo mi associo a Pardo, non per ragione di partito Radio 24, mi associo a Pardo, è che Suning vorrà venire, mettere in vetrina l'artiglieria pesante e vorrà un allenatore che conosce la strada. E per questo che il codice l'ordine. Posso dirvi che secondo me invece Suning, che conosce appena il calcio in Europa ed è persona molto intelligente, preferisce affidarsi a chi il calcio conosce, quindi non prenderà lui personalmente una decisione sull'allenatore. Questo è il mio punto di vista. Boh. Questo. Tu Pierluigi? Io credo che Pioli, allora, a parte il fatto che a me sembra comunque abbastanza improbabile, lo so che ci sono delle voci, ma insomma, che Conte che vince la Premier, perché questo accadrà, insomma, poi se ci sta ascoltando il mister toccherà ferro, toccherà legno, visto che gli inglesi toccano legno, non ferro. Ma non lo so, si arrampica sulle panchine. Però voglio di dirti, mi sembra comunque curioso, cioè qualche dubbio ce l'ho che Conte che vince la Premier League l'anno dopo con un Abramovic pronto a investire con la Champions League rinuncia a questa opportunità, cioè mi sembra una roba bizzarra. Ragazzi, scusate, un ultimo flash di Franco Ordine e poi vi saluto tutti perché ho il GR. Dimmi Franco. Sì, no, scusate, qui il punto è senza fare scenari apocalittici. Il punto è nell'ambiente, nel giro degli amici di Conte e chi ha parlato personalmente con Conte capisce che la conferma di Conte al Chelsea non è assolutamente matematica, nemmeno in caso di vittoria di Premier League. E questo l'ho sentito anch'io, anche perché per le ragioni che abbiamo spiegato anche l'altra volta, cioè lui in Inghilterra non si è portato la famiglia e poi mi sembra un allenatore che è fortemente italiano. Ci fermiamo per il GR, ciao a tutti, grazie. Dopo il GR c'è Re Mario Cipollini. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Te vuoi stare seduto in panchina a guardare? O vuoi entrare in campo? Ricominciamo tutti ai vostri posti! E andiamo! Tutti convocati. Mario Cipollini è già davanti, Mario Cipollini al vento, ai 200 metri finali. Cipollini vince la 93esima edizione della Sanremo. Parte la volata, siamo ai 300 metri dalla conclusione, 350 metri dal traguardo. Van Dijk sta lanciando la volata praticamente per Cipollini che parte adesso al centro della strada. Super Mario è il più forte, vediamo se riesce a dimostrarlo. Super Mario al centro della strada, imperiosamente primo per la terza volta nella Gambeveg. Giovanni Lombardi ed è la volta di Mario Cipollini. Mario Cipollini con McEwen a ruota. Cipollini davanti. Cipollini. Ed è nostro! È nostro il mondiale! Che nostalgia quell'anno palindromo, il 2002. Tutte queste vittorie messe in fila. Giorgio Luca, mi devi aprire sta rubrica per gli ascoltatori di Radio 24 all'estero perché ho messaggi che mi arrivano da Chicago. L'altro giorno ho detto che mi ha chiesto amicizia su Facebook un amico che si ascolta dalla Corea del Sud. Insomma, in mondovisione facciamo gli auguri a Mario Cipollini. 50 e non vederli, non sentirli, non lo so. Com'è Mario? Li bene, grazie. Vederli non si vedono. No, vedono, si sentono. Non li vedi. Stagi, Piero Augusto. Sono qui. Ma li vedi 50 anni a Cipollini? Ma lui dice che li vedi. Io non li vedo. Io vedo sempre un fisico perfetto. Si allena come prima, più di prima, l'entusiasmo di un ragazzino. Mi sembra sereno, ecco. Devo dire che i 50 anni, se devo dire una cosa, mi sembra un Cipollini maturo. Non dirmi che ha raggiunto la pace dei sensi, perché non ci credo. No, quello non te lo dirò. Quello non te lo posso dire né io, e credo che non te lo dica neanche lui. Hai raggiunto la pace dei sensi, Mario? Scusa? Hai raggiunto la pace dei sensi, come dice Stagi? Speriamo di no, è ancora lungo. Da divertirci, è ancora lungo. Grande Marione. Dicevi, Stagi? No, è molto più riflessivo, se la prende forse anche meno. È un uomo che è consapevole di quello che ha fatto, di quello che rappresenta ancora oggi per il mondo dello sport, certo, tutto, e del ciclismo in particolare. Sì. Mi sembra uno sereno che non vive di invidie, però sicuramente uno che ha anche la capacità, la voglia, come sempre, con molta calma, di dire le cose che ha nel cuore e nella testa. Sì, e soprattutto di toccarla piano, perché leggo una dichiarazione virgolettata: il ciclismo italiano non c'è più, siamo il quarto mondo, abbiamo solo Nibali, l'unico vero talento di cui possiamo disporre, il resto sono solo comparse. Aru, ci dia un segno. Siamo qui e lo aspettiamo. Firmato Mario Cipollini. Confermi? Confermo, perché vedendo la Sanremo sabato pomeriggio, Italia è inesistente, e questo, tra virgolette, a me fa male. Mi fa male perché ho vissuto la mia carriera quando l'Italia ha dominato le classiche, le gare più importanti, e sicuramente noi italiani facevamo la voce grossa in qualsiasi gara di un giorno, e soprattutto nel ciclismo avremo naturalmente grandi talenti, sono dei grandi corridori che fortunatamente non smettono di nascere in Italia, però non abbiamo una struttura, non c'è una squadra, non c'è più il ciclismo italiano. Ipotesi di poter riunire tutti gli atleti che sono sparsi nelle grandi squadre internazionali, poterli mettere in una squadra che si chiama Italia, che si chiama Roma e che si chiama non so cosa, all'interno di questo progetto potrebbero crescere tanti giovani di tantissime categorie, e per cui questo mi fa male perché capisco che siano cambiati i tempi. Certo. Naturalmente per fare una squadra di ciclismo servono moltissimi soldi. Bravo. E purtroppo in Italia non ci sono. Capisco che l'Italia ha dei problemi economici molto più gravi che dello sport e del ciclismo, però credo anche che non si debba dimenticare questo sport che tanto ha dato all'Italia, che tanto l'Italia si è in qualche modo espressa nel mondo, e sicuramente a livello industriale, a livello di creazione di campioni e a livello di tutto quello che è l'indotto che lavorava intorno al marchio Italia, naturalmente in pochissimi anni siamo finiti nelle retrovie. Sì, e a me questo dispiace moltissimo. Perché se Nibali ed Aru fossero nella stessa squadra, se ci fosse Colbrelli, se ci fosse Oss, se ci fosse Quinziato, se Viviani l'avessimo, se tutto questo blocco fosse italiano, insomma, saremo un'altra cosa, credo, alla partenza delle gare. Vedi come l'ultimo che ha messo grandi capitali nel ciclismo, e che è stato anche presidente di questo di Confindustria, signora Giorgio Squinzi, adesso si interessa di altro. No, sì, sì, allora, però mi chiedo una cosa, e credo che in questo momento bisognerebbe fare qualcosa per salvare il ciclismo. Sono state fatte, mi sembra, delle leggi in Italia per salvare delle squadre di calcio, giusto? Sì. Sono state fatte delle leggi appositamente perché il calcio funzioni e vada avanti. Io non dico che il ciclismo non debba prendersi le proprie responsabilità, ma credo che qui debba esserci un intervento politico, perché qualcuno debba fare veramente qualcosa e far presente che questo qualcosa manca. Mm-hmm. Probabilmente, a mio avviso, il ciclismo ha perso quell'importanza mediatica a livello nazionale, e che il ciclismo sta andando male non gliene può fregare a nessuno, niente. Ma, l'importante senti, è che funzioni il calcio. Posso chiederti una cosa? Poi giro la considerazione a Stagio. Ma tu ti sentiresti come Mario Cipollini, e per quello che sei e che sei stato e che rappresenti per il ciclismo italiano, di impegnarti in prima persona per portare avanti questo tipo di logica? Allora, io sono un personaggio troppo scomodo. Ma proprio per quello. Non vado bene per la politica, non vado bene per sistemare le cose, perché non mi stanno bene le cose che non sono fatte per il bene del ciclismo. Qualche mese fa, quando si parlava di candidatura di Roma alle Olimpiadi, sì, io personalmente mi sono permesso di telefonare al presidente del CONI Malagoi dicendogli: signor presidente, perché non fate una cosa vera, importante, salvate il ciclismo e fate una squadra e la chiamate Roma 2024, perché si parlava di quelle date, sì, no? Sì. E iniziamo a fare un progetto Roma in giro per il mondo con la bandiera italiana e riprendiamo tutti quei talenti che purtroppo sono sparsi in mondi diversi, in, sì, culture completamente diverse, riportiamoli a casa. Sicuramente stanno meglio loro, perché parlando italiano, mangiando italiano e parlando con gli italiani, secondo me, è un'altra cosa che non andare a... in Kazakistan o a Dubai, eccetera. Bravissimo, bravissimo. È quello che io vorrei, ma non perché voglio un lavoro interno. A me non mi interessa, perché un giorno che guardo la televisione mi viene in mente quando il sottoscritto, quando Pantani, quando Bartoli, quando Bettini, quando Ballerini, quando Tafi, quando tutta questa schiera, quando Moser, quando Saroni, gli argentini, li citiamo tutti, quando quella squadra armata arrivava alla partenza, impauriva, tra virgolette, il mondo del ciclismo. Ora non ci considerano neanche dei vigili urbani. E Malagò cosa ti ha risposto? E Malagò naturalmente mi ha risposto da politico. Ho capito, cui, questo è chiaro, non c'è, nel senso, ha risposto da politico, dicendo: sì, bella ancora idea. Bella idea, una cosa vediamo se la candidatura va avanti, ne parleremo, e sempre così. Io ormai è nota un po' a tutti che ho preso e sono andato a parlare a Berlusconi dicendo di salvare il ciclismo. C'è bisogno di salvare il ciclismo, secondo me. Questo è il mio personalissimo pensiero quando guardo le corse, quando guardo il ciclismo, e vedo che per decenni e decenni il mondo il frutto del ciclismo italiano e del popolo italiano in qualche modo segnava una tradizione, segnava una linea. Ora la linea noi siamo costretti a inseguirla. Chiaro, e difficilmente ce la arriviamo. Questo chiaro. Mi dispiace, questo a me fa male, mi dispiace. Sì, ma fa male a tutti quelli che amano ciclismo. Mi ci metto dentro. Bravissimo. e metto dentro Pier Augusto Stagi prima di me. Stagi. Vedere Nibali con la maglia Bahrain sopra, che vorrei sapere, fortunatamente c'è un Bahrain che fa la squadra e dà possibilità a Nibali, e vedere Aru che è in Kazakistan, sono cose che sinceramente a me fanno male. E sinceramente tutti questi qua hanno imparato a fare qualcosa e hanno avuto un insegnamento da una cultura italiana. Si può fare qualcosa, Pier Augusto, secondo te? Ma Mario ha fatto la fotografia dello stato dell'arte. D'altra parte, noi italiani stiamo vivendo una grandissima crisi. No, mancano gli sponsor, ma all'estero non è che stiano meglio. All'estero hanno fatto grosso modo quello che sta dicendo Mario, perché se noi andiamo a vedere anche il Team Sky, noi pensiamo che sia una squadra privata. Sì, certo, c'è dietro James Murdoch, figlio di cotanto padre, appassionato di ciclismo, ma dietro c'è una nazione. Cioè, la Sky ha deciso 15 anni fa di investire prima nella pista, e sappiamo che cosa hanno ottenuto nelle ultime due Olimpiadi, cosa hanno ottenuto gli inglesi, e poi sono andati alla conquista del Tour, certo, con una squadra sostanzialmente nazionale, certo. Ma di squadre nazionali ce ne sono: la Astana, che ha citato poc'anzi Mario, Conaro, il Bahrain squadra di Vincenzo Nibali. La stessa Katyusha è una formazione russa, la Gazprom è della Russia. Io arrivo a dirti che anche la Movistar spagnola, l'unica vera spagnola, è un marchio nazionale, cioè voluto dalla Spagna, è come se fosse sponsorizzata la squadra da TIM. Scusate se faccio della pubblicità, ma visto che parliamo di brand, ma certo, se noi andiamo a vedere, certo, facciamo fatti, ne troviamo due o tre, perché anche la Française des Jeux, che è il Totip, no? Nazionale francese, è una squadra nazionale. Se ne posso elencare una multitudine. Ecco, allora facciamo all'estero, così. All'estero hanno fatto sistema. Hanno fatto sistema, perfetto. Innanzitutto probabilmente hanno anche dei marketing manager un pochino più preparati, che sanno anche guardare al di là del proprio naso, che non fanno sempre soltanto le cose ormai ripetitive e scontate. Sponsorizziamo il calcio. Vai anche a vedere qualcosa che ha una grande penetrazione nel tessuto sociale e il costo. Il ciclismo, non è che io e Mario dobbiamo fare uno spot, ma è dato dai dati, e il ciclismo ha questo grande merito. Ha un costo, tra virgolette, relativo, perché comunque costano, sì, gli atleti di livello costano anche nel ciclismo, ma non ha dei costi così ma eccessivi. Questo è evidente. Ma allora ragazzi facciamo una cosa inventata così su due piedi. Io metto a disposizione questo microfono che raggiunge alcuni milioni di persone, e mi prendo questa responsabilità per portare avanti, se ne avete voglia, questa campagna disponibile. Facciamo una squadra con le donazioni del popolo italiano, in qualche modo chiamiamola Italia, ognuno si tassa di un euro, li mandano, creiamo una squadra e con le donazioni riportiamo il ciclismo. Facciamo così, sposiamo questa causa tutti insieme, chiamiamo chi di dovere, che sia Malagò invitandolo a non dare risposte in politichese, che sia magari Giorgio Squinzi, che il ciclismo ce l'ha nel cuore, che siano magari personaggi che possono muovere, e proviamo a vedere se succede qualcosa. Buttiamo questo sasso nello stagno, se siete d'accordo, ragazzi. Ma io sono d'accordissimo, e per tanti anni ho avuto il desiderio e ho combattuto cercando di andare a raccontare cos'era il ciclismo a grandi sponsor o ipotetici investitori di questo mondo. E tra l'altro mi sono celato nelle vesti di un giornalista e sono andato a intervistare Giorgio Squinzi. Io ho ancora una registrazione, perché avevo creato una brochure spiegando cos'è il ciclismo a ipotetici investitori che non conoscono il ciclismo. Per cui la voce autorevole di un uomo come Squinzi, che spiegava quanto il ciclismo avesse reso e cambiato il potere e la potenza del suo marchio. Purtroppo poi, naturalmente, nel caso di Squinzi, un'azienda ha dei cicli e poi magari si inserisce in altri mondi e probabilmente potrebbe diventare ripetitivo. Però ho anche pensato spesso che ci sono degli atleti che forse per varie situazioni non giocano in un anno, sto riferendo a un calciatore che sta un anno in panchina e ha il valore di una super mega squadra di ciclismo, perché il ciclismo. Sì, si parla di grandi cifre, ok, ma una mega squadra la si fa con 25-20 massimo 25 milioni di euro, e sono tanti soldi, ma sono niente a che vedere con il calcio. È chiaro. Okay. Allora portiamo avanti questa campagna. Io mi impegno personalmente. Mario Cipollini, che è un irregolare, se ne ha voglia, si impegna personalmente. Stagi, che è un nostro, è nostro, è di Radio 24, di fatto, è quello che ci racconta ciclismo ormai da anni, si impegna personalmente, e vediamo di portare avanti questo discorso nel corso delle settimane, perché a me è una cosa che farebbe enormemente piacere ed è una cosa che mi affascina in maniera incredibile. Scusa se ti interrompo, dimmi. Io sono un giovane vecchio, no? Nel senso che ho cominciato a respirare ciclismo veramente da piccolo, e mio padre era un ciclista appassionatissimo, cultore del ciclismo toscano, per cui fanatico di Bartali, di Nencini, di Coppi, conosceva tutti. Il ciclismo italiano è qualcosa di talmente profondo che portiamo, noi abbiamo la responsabilità di portare avanti il nome di questo sport, il nome di Bartali, di Coppi, di tutti i pionieri di questo sport che hanno fatto grande una nazione e hanno reso questo sport straordinario. In questo momento siamo in mano a zero, non abbiamo nemmeno niente e non ce lo possiamo permettere, secondo me, di rovinare questo sport in memoria di grandi personaggi che di quello che ha rappresentato per delle generazioni di italiani. Definire Fausto Coppi un ciclista è quasi un'offesa. È un personaggio storico, che ha riunificato l'Italia. Bravo, cioè. che credo che Fausto Coppi sia ad oggi nel nostro paese lo sportivo più importante che questa terra ha dato, no? Insieme a Bartali, le storie, la guerra, quello che hanno vissuto, quello che c'è stato all'interno della loro avventura, della loro vita, e noi ce la dimentichiamo e la buttiamo con una maglia con scritto Bahrain piuttosto che Astana. Ma io ho visto la Sanremo e mi sono incazzato, ho capito. Bravissimo, incazzato. Sembra di essere siamo stati colonizzati. Allora hai ragione nel definire il ciclismo italiano come una roba da quarto mondo, ragazzi. Bravissimo. Io vi ringrazio. Torniamo a risentirci e portiamo avanti, mi impegno in prima persona, questa battaglia. Tu ci sei, Stagi c'è, Marino Bartoletti sono sicuro c'è in prima fila, e siamo già e cominciamo ad essere già in tanti. Grazie. Ciao Nicola Roggero. Buongiorno, intanto sentivo parlare di ciclismo, che resta uno sport che ha un posto importante nel mio cuore. Appunto. Sentivo Mario Cipollini ricordare nomi che ovviamente io non ho potuto vivere. Guarda, io davvero voglio provare a fare questa battaglia radiofonica per quel che conta questo microfono, che non è poco. Grazie al cielo, perché Cipollini ha ragione, facciamo una squadra che sia italiana, che si chiami Roma, che si chiami in un altro modo, e riportiamo a casa le nostre stelle, quelle che abbiamo, a correre in una squadra italiana, come d'altra parte ha fatto Sky, che è il posto in cui lavori, è una sorta di nazionale britannica con il marchio della tua TV. Sai, il problema è chiedersi dove è finita la forza imprenditoriale italiana, quella che per anni ha appoggiato questo sport, appunto con le case che si legavano a questa disciplina, che evidentemente non investono più nel ciclismo, perché non è colpa degli altri se altri paesi investono, invece l'Italia non lo fa. Quest'anno credo che per la prima volta non abbiamo una squadra italiana nel Pro Tour, quindi nell'elite del ciclismo mondiale. È chiaro che questo è uno sport che per fortuna si è allargato a dismisura, per cui se una volta il ciclismo era limitato a Italia, Francia, Belgio, Olanda, Svizzera e un po' di Spagna, oggi invece è davvero uno sport che a parte l'Africa, a parte i Caraibi, è diventato come l'atletica, perché certo, ha atleti certo. E ciclisti di tutto il mondo, quindi è molto meno facile vincere. Però è sorprendente che con la passione, l'affetto che c'è nel ciclismo, che fra l'altro è una passione e un affetto dei paesi più ricchi del mondo, perché parliamo di Italia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Stati Uniti, i paesi dove c'è più disponibilità di denaro, ebbene non ci siano imprenditori italiani che investono in maniera massiccia in questa disciplina, come fecero nel passato, non so, certo. Perfetti con la Brooklyn abbiamo marchi storici storici, Mercatone 1, abbiamo marchi storici che adesso non, evidentemente non se la sentono più. Nicola, posso darti un appuntamento per domani? Posso convocarti per domani? Perché di Premier League avevo un sacco di cose da chiederti, poi è venuta fuori questa cosa. Hai tempo domani, 5 minuti per me, per dedicarmi? Sì, va bene, non ci sono problemi. Grazie Nick. Grazie Nicola Roggero da Sky, ci sentiamo domani ragazzi, Giorgio Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Edoardo Lavezzari in redazione, ciao a tutti. Abbiamo visto abbastanza, ciao a tutti. Saluti!